Coming, puntata numero 46, un po' in ritardino, sono le 22.25 qui da queste parti a Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutte che stanno abbandonando lo studio, visto che questa sera chiudiamo il martedì femminista e lesbico autogestito che avete sentito dalle 5 di oggi. Vi ricordo mfla.noblogs.org per ascoltare tutti i podcast delle trasmissioni che si sono, diciamo, susseguite durante il pomeriggio. E noi cominciamo appunto She Said Destroy, la nostra sigla I Fell in Love, e cominciamo con una band. Qualche giorno fa mi sono imbattuta in un album di una bellissima band maltese dell'isola di Malta, non ci sono molte band che vengono da quelle parti, loro si chiamano Bing Rovers e mi ha molto interessata il side project di due dei tre componenti di questa band. Lei si chiama Alison Galea ed è chitarra e voce, e il batterista e quello che fa i rumori si chiama Jan Skrantz, e hanno ultimamente messo su un side project appunto rispetto a Bing Rovers che si chiama The Show. Alison forse la conoscerete senza saperlo, perché in realtà lei ha dato la voce a, diciamo al film di Wim Wenders Pina, dedicato a Pina Bausch, ed era quindi la voce che raccontava, che narrava quello che succedeva al di fuori delle coreografie. Mi piace molto questo pezzo, quindi lo faccio ascoltare subito. Lo chiamano The Sh, il pezzo si intitola So Over. Eccoli, erano The Show, il pezzo si intitolava So Over, insomma un po' tutto in ritardo oggi, un po' tutto di fretta, quindi insomma avremo una mezz'oretta, poco più, per stare insieme. La prossima artista, insomma, mi si accusa sempre, voi ascoltatrici, ascoltatori, mi dite sempre: ma insomma c'è sempre musica americana, c'è pochissima musica europea, italiana. No, europea no, però italiana sì, è vero, c'è pochissima roba italiana che ascolto, lo sapete. Ogni tanto cerco di passarvi qualcosa che mi piace o che comunque attira la mia attenzione e magari piace a voi più che a me. La prossima artista si chiama Maria Antonietta, il suo vero nome è Letizia Cesarini, è una, insomma, una che suona da quando aveva 18 anni, non ne ha molti di più, però insomma non è molto, è molto giovane, però insomma suona da praticamente sempre. Prima faceva parte di un duo che si chiama Young Riz, insomma qualche anno fa, e poi ha cominciato a fare, a pubblicare dal 2011, da quando si è sciolto definitivamente questa band, ma un po' prima aveva già cominciato a pubblicare delle cose sue, a fare dei lavori, dei progetti un po' più punk suoi da solista, fino appunto a questo album registrato nel 2012, prodotto da Dario Brunori, che appunto forse qualcuno di voi so che avete una passione per Brunori Sas, quindi insomma che è appunto Dario Brunori, quindi insomma in generale un artista che in questo momento sta riscuotendo molto successo e che appunto ha registrato e prodotto questo album per Maria Antonietta, dove ci sono moltissime influenze, che ne so, c'è un po' di Nada, un po' di Carmen Consoli, ma anche un po' di PJ Harvey a tratti, insomma. Diciamo che sono interessanti anche i tour che ha fatto Maria Antonietta. Sono, insomma, il 20 gennaio è uscita, è stata annunciata la pubblicazione di questo secondo album ufficiale che si chiama Sassi. Io ho ascoltato questo pezzo, è uscito praticamente qualche giorno fa, l'11 marzo, ho ascoltato questo pezzo che mi sembra che valga la pena di ascoltare, insomma ve la faccio sentire se vi era scappata. Le si chiama Maria Antonietta, il pezzo si intitola Ossa. Questa era Maria Antonietta con il suo pezzo Ossa. Insomma, poi mi farete sapere che cosa ne pensate. Lo sapete, abbiamo un blog dove potete scaricare, e so che molte di voi lo fanno, e anche spulciare nella nostra playlist, nella mia playlist, magari per andare poi a approfondire alcune delle artiste che vi sono piaciute di più durante la trasmissione. L'indirizzo del blog è www.twowomenshow.wordpress.org, sono un po' distratta in questo momento, twowomenshow.wordpress.com. vi ricordo, se volete squillarmi o parlare con me nel tempo di una canzone, che sembra una cosa molto poetica, è 0649 1750. E per chi appunto bazzica dalle parti di Facebook, c'è un gruppo, un piccolo gruppetto di signore e signori che insomma si scambiano anche ogni tanto dei piccoli consigli su cosa ascoltare, che si chiama Sisterhood is Blooming. Prossima band, loro sono un duo, vengono da Tulsa e si chiamano Sarah Dickinson, che è appunto voce e chitarra di questo duo, e Conor Robb, che invece è bassista e batterista di questa piccola band. Hanno insomma, li ho diciamo intercettati praticamente sulla rete, quindi tutte le canzoni sono scritte da Sarah. E hanno diciamo tirato fuori soltanto l'unica cosa che potete trovare sul web con grande fatica, è un piccolo EP di 3 canzoni che appunto si chiama come loro, che si chiamano Moonshine. Un suono molto anni 80, molto anni 90, molto di quelle robe che si ascoltavano nelle radio, soprattutto nelle radio non prettamente italiane, oppure in quelle trasmissioni radiofoniche in tarda notte anche qui in Italia, che in qualche modo cercavano di insomma riportare, no, anche un po' quella che era l'onda degli altri paesi. Vi faccio ascoltare questo pezzo che ha subito catturato la mia attenzione. Loro si chiamano Moonshine e la canzone si intitola Broke Joke. Grazie a chi mi chiama durante un pezzo per farmi un po' di compagnia, visto che da queste parti sono le 10.39, non so dalle vostre parti che ore sono. È sempre bello, qualche giorno fa mi è arrivato un album da ascoltare ed è sempre una cosa piacevole quando qualcuno, in questo caso qualcuna, chiede, no, la tua attenzione direttamente, selezionando anche da chi farsi ascoltare. Evidentemente è una cosa che ti inorgoglisce, perché dice ok, questa persona vuole sapere cosa ne penso di quello che fa. È una band che sono molto felice di farvi ascoltare. Intanto in anteprima è uscito da pochissimo il loro album registrato a Seattle. Loro hanno diciamo attirato l'attenzione di una musicista out rock sperimentale molto figa che si chiama Amy Daniel. Poi ve la farò farò sentire in un'altra delle prossime puntate, ma non è dire che voglio parlarvi, cioè non è della loro mecenate che voglio parlarvi, ma è della band che mi ha contattato e che il 22, ve lo dico già, il 22 aprile sarà qui in studio per un live, un'intervista, quindi un racconto di quello che è il loro progetto, quello che fanno. Loro si chiamano O, che non è francese come potremmo pensare, ma in realtà è sardo, in sardo significa uovo. Sono un ensemble, sono sei elementi, tre ragazze sarde e tre ragazzi romani, ed è un sestetto che in qualche modo ha una mescolanza di suoni, un po' jazz, un po' swing, un po' funky, un po' da brass band, insomma tantissime sonorità dentro. Intanto c'è Ersilia Prosperi, ve lo dico, ve li comincio ad annunciare in modo tale che sapete con chi avrete a che fare, chi ascolterete appunto il mese prossimo, il 22 aprile, poi ve lo ricorderò. Ersilia Prosperi alla tromba, l'ukulele, al flicorno soprano, che è anche autrice dei brani appunto di questo album, Sabrina Coda al sax alto e sax soprano, Martina Fadda alla voce. Piccola parentesi, non ci sono tantissime donne che si occupano, no, di questi strumenti, tromba, flicorno, sax alto, sax soprano, non ci capita spessissimo di ascoltare musiciste che fanno questo e che in più scrivono anche la loro musica. Luca Venitucci al piano, all'organo e al Fender Rhodes, Claudio Mosconi al basso e Cristiano De Fabritis, spero di averlo pronunciato bene, alla batteria, al vibrafono, e al glockenspiel. Cosa dirvi? Hanno registrato a Seattle, stanno in questo momento molto con grande fervore, con grande veramente con grandissimo entusiasmo autopromuovendo questo Peaches Crisis, che è veramente divertente, veramente ascoltabile, veramente godibile. Quindi vi faccio ascoltare in anteprima questo pezzo, di cui trovate anche in rete un divertente video. Loro si chiamano O e il pezzo si intitola Tutto in fila. Thank you. Ecco qua, queste erano tutti in fila, insomma, spero che vi siano piaciuti. Poi li ascolteremo qui, li ascolteremo, questa bella band mezza sarda, mezza romana, live il 22 aprile, quindi ve le preannuncio, preparatevi. Siete nostalgiche delle belle ballate pop anni 80, romantiche, morbide, un po' strappalacrime, un po' no? Ecco, c'è una giovane band, piccola band, sono un duo in realtà, che si chiamano Hearts, e che hanno tirato fuori su internet una nuova canzone che si chiama Call My Name. Non hanno ancora tirato fuori il loro primo album di debutto, quindi staremo a vedere se questa band si farà effettivamente. Intanto vi faccio ascoltare Call My Name, loro sono Hearts. Quanto siete tornate indietro nel tempo. Scusate, vi ho detto che erano due, in realtà è un quartetto di Brooklyn, appunto, e come vi dicevo, anche se sono stati abbastanza in giro, in tour nell'anno passato, all'inizio di quest'anno, in realtà non hanno ancora fatto un vero e proprio album di debutto, quindi staremo a vedere. Prossima artista, a me piace molto, ve l'ho fatta ascoltare altre volte, lei si chiama Sharon Van Etten, è appunto una musicista un po' folk, un po' no, come potrei dire alla mia maniera. Mi era piaciuto moltissimo tantissimo, in particolare dei tre album che ha pubblicato nella sua carriera dal 2009 a oggi, Epic, che risaliva al 2010. Sta per uscire il suo nuovo album, uscirà il 26 maggio con la Jack Jaguar, che è appunto un'etichetta che ci piace tantissimo, di cui spesso ascoltiamo artiste che loro propongono. E io intanto vi faccio ascoltare, prima, molto prima dell'uscita del suo album, che si chiamerà Are We There e che uscirà il 27 maggio negli Stati Uniti e il 26 in Europa, questo appunto singolo che in qualche modo preannuncia questo album, che si intitola Taking Chances. Lei è Sharon Van Etten. Questa era Sharon Van Etten con appunto il singolo che preannuncia il suo album in uscita a maggio, che si chiama Taking Chances. Prossima band, molto giovane, molto sconosciuta, so pochissimo di loro, so che vengono da Melbourne, che sono in quattro: Chris, Ryan, Ashley e Alana. Quindi due ragazze e due ragazzi, sono molto giovani, molto divertenti, molto carini, si chiamano Hideous Town e il pezzo si intitola Joy. Thank you. Mysterious Towns, il pezzo si intitolava Joy. Prossima band, molto velocemente vi faccio ascoltare un altro paio di pezzi prima di lasciare gli studi di Radio Onda Rossa, insomma di salutarvi e di chiudere il martedì femminista e lesbico autogestito. Loro si chiamano Wish Beards, scusate, e sono un quartetto che in pochissimi mesi, un quartetto originale di Seattle, che in pochissimi mesi è passata da provare, diciamo, nel garage di una di loro diciamo, ad aprire i show delle band preferite come Ostra, J.D. Samson e Men. Loro sono Bryn, Erin aka Res, Jude, quindi Erin conosciuta come Res, che suona appunto le tastiere, i sintetizzatori, Jude alle batteria e Brighton al basso. Sono quattro ragazze molto queer nell'aspetto, nel modo di suonare, nel modo di presentarsi al pubblico. Hanno a fine dell'anno scorso, diciamo, registrato il loro EP di debutto, quindi faccio ascoltare questa band che secondo me provate ad ascoltarla con attenzione, fra un po' comincerà ad attirare molto molto l'attenzione. Si chiamano Wishbird e il pezzo si intitola Vision Quest. Wishbeard, segnatevelo, perché loro sono secondo me molto molto brave, ne sentiremo parlare molto molto presto poi nel canale ufficiale. Poi mi direte ma ne parlava già l'anno scorso, ok, ve l'ho detto. Prossima band, prima di salutarvi con un classicone, visto che Mofire ancora non si vede da queste parti, io gli rubo qualche minutino. Loro sono Chicks on Speed, ne parlavamo la settimana scorsa durante la trasmissione The Chart, che vi ricordo va in onda invece nel primo pomeriggio in apertura del martedì femminista e lesbico autogestito, in cui io e Pink Claw ci alterniamo ricostruendo una sorta di percorso infinito e di collegamenti che non terminano mai tra le artiste che hanno fatto la storia della musica delle donne. Le Chicks on Speed uscivano appunto nei nostri discorsi, venivano fuori, sono venute fuori nei nostri discorsi la settimana scorsa, e qualche giorno fa è uscito un singolo e anche un video che accompagna questo singolo, che preannuncia il loro album, anche questo in uscita a maggio. Erano 4 anni che le Chicks on Speed non facevano uscire niente di nuovo, quindi insomma nessun album lungo, album insomma full length come si dice in gergo. Si chiamerà Utopia, che è un bel titolo insomma come per preannunciare qualcosa di molto interessante. Sarà anche molto particolare perché se cercate il video che trovate sui canali insomma su internet, potete vedere che già il video che accompagna questa canzone è comunque un video in cui sono coinvolte tante altre performers, insomma c'è molta danza, c'è molto anche, ci sono dei costumi molto belli, dei trucchi molto belli, e pare che verrà appunto accompagnato da 6 applicazioni interattive con le quali, dicono appunto Alex Murray Leslie e Melissa Logan, cercheranno di investigare e di anche di un po' di mettere, come si può dire, sfidare i confini tra il pop sperimentale, la musica sperimentale pop, e diciamo il suono, la musica in generale e l'arte visuale, quindi insomma cercare di mettere insieme queste cose e farle in qualche modo comunicare. Siamo molto curiosi di ascoltare quello che faranno con questo nuovo album. Intanto ci ascoltiamo questa piccola chicca, questo piccolo assaggio che si chiama appunto Utopia. Money growing on trees here. We got the neighborhood. Yeah, the buildings don't look great right now. So why don't you just go blow up the next bubble, but leave us alone in our utopia. Better living, wistful thinking, Bauhaus trend is set. Change your wallpaper and everything will be great. Create a perfect harmony for the self and all the rest. Virtual versus real space, no place, no space. The world is a theater, we each have a role. But art's not the answer, we're not social workers, you know. Let's go on strike, it's art's for art's sake. 我希望明天，我希望今天，我希望永远的美丽。你的美丽，你的将来，我的希望，你的明天，我的今天，你的将来，我的美丽，你的今天。 propelled. Bridges go to anywhere we want them to go to. People live here. People walk the streets. People. Utopia. We're moving into utopia. We've moved into utopia. Insomma, mentre finisce, ve lo lascio un po' in sottofondo questa lunga coda di Utopia, che appunto preannuncia un nuovo album delle Chicks and Speed. Intanto vi dico, è un album molto interessante, anche perché ci sono tantissimi strumenti anche utilizzati, microfoni sott'acqua, iPads, tute, diciamo, con sensori che al tocco fanno dei suoni. Insomma, hanno utilizzato un sacco di interessanti strumenti, interessanti suoni per questo lavoro, anche perché appunto hanno potuto avvalersi, insomma, di una ricerca fatta in collaborazione con il Centro di Arte e Arte Spaziale di Sydney, e quindi insomma hanno avuto anche dei fondi per poter lavorare tranquillamente e con grande intensità a questo lavoro. Io vi lascio, anche perché dall'altra parte del vetro arriva qualcuno che aspettate sicuramente, Moonfire. Intanto vi lascio con questo pezzo. Negli ultimi giorni sentiva tantissimo parlare di questo mega concertone, si sente tantissimo parlare di questo mega concertone che sta per arrivare in quel di Roma, di questi Rolling Stones. Allora, tutti quanti stanno comprando i biglietti. Ho sentito veramente gente di qualsiasi estrazione musicale che insomma vuole andare a vedere questa sorta di super evento. Allora, io ve la rilancio: se non vi trovavate in giro per l'Europa tra il 2 aprile e il 14 maggio nel 1979, io avevo 6 anni, non so voi, sicuramente non avete mai visto Kate Bush dal vivo. E perché Kate Bush ha fatto praticamente solo un tour nel 1979, poi ha smesso per una serie di ragioni, perché aveva una gran paura di viaggiare in aereo, e quindi insomma non è mai voluto uscire dalla Gran Bretagna, e perché per tutta una serie di altre ragioni, e 35 anni dopo ha deciso quest'anno di fare un tour, si chiama The Tour of Life. E appunto, in realtà l'unico tour che ha fatto l'ha fatto a 20 anni, quando appunto era diventata strafamosissima con il suo album e con la sua meravigliosa Wuthering Heights. E quindi insomma, se avete la possibilità di stare a Londra, no, in Inghilterra in realtà, perché non è solo a Londra, ma in Inghilterra questa estate, cioè tra il 26 agosto e il 19 settembre, io vi dico, ci sono 15 date, sarà un casino trovare i biglietti, però insomma secondo me vale la pena andarsi a sentire Kate Bush. Io vi lascio a Moonfire, vi saluto, vi rimando al nostro blog www.twowomenshow.wordpress.com per il podcast, e intanto vi lascio con Kate Bush, Wuthering Heights. You have